6. Ascolta e controlla. 1. Chi fu il primo presidente della Repubblica? 2. Quella volta fummo molto fortunati. 3. In quell'occasione ebbe molto coraggio. 4. Purtroppo non ebbi il tempo di intervenire. 5. Il professore non capì la mia domanda. 6. Ascoltammo con attenzione. 7. Non trovarono la strada e tornarono indietro. 8. Per festeggiare, offrì un aperitivo a tutti.